Come e quando è nato lo studio di Yare? Mi è stato chiesto di spiegare come sono arrivato a comprendere e predicare che Cristo è Yare, perciò vi rendo la mia testimonianza. Il 20 luglio 1984 sulle colline modenesi, aiutato da altri fratelli e da me, Walter Binni consacrava la sua vita a Gesù Cristo. La prima domanda che mi pose era quella relativa alla Chiesa. Quale chiesa frequentare, dal momento che erano varie le chiese nei pressi di Formigine, il paese nel quale abitavamo? Lo avrei indirizzato molto volentieri alla comunità di Modena alla quale appartenevo. Ma per non tirare acqua al mio mulino, l'ho indirizzato alla comunità di Formigine. Appena entrato in quella comunità, Walter si rese conto che l'indirizzo teologico era quello dei riformati. E non contento di questo, si rivolse ad una comunità pentecostale, la cui sede è a Sassuolo, non lontano da Formigine. Ma anche lì presto si rese conto che il pastore era più un mercenario che un pastore di anime. Così, disorientato com'era, scrisse a mia insaputa una lettera al sacerdote cattolico di Formigine, per esprimere la sua insicurezza in merito alla Chiesa. Il sacerdote gli rispose con parole convincenti, dicendogli che la vera Chiesa sussisteva nel cattolicesimo romano. Credendo di aver trovato la vera Chiesa, Walter, dopo essersi umiliato davanti al vescovo per aver abbandonato la religione cattolica, si iscrisse ad una facoltà teologica del cattolicesimo romano, dove studiò dal 1985 al 1999. Per i primi anni ci perdemmo di vista. In seguito, egli mi cercò e di tanto in tanto veniva a casa mia per discutere su questioni bibliche. Poiché aveva ricevuto un posto come docente di religione, mi venne a cercare dicendomi che aveva difficoltà nel rispondere alle domande degli alunni. Si ricordava quando io a suo tempo davo delle risposte logiche e convincenti basate sulla Bibbia, ma non ne rammentava il contenuto. Così tra noi si instaurò un rapporto amichevole e di stima reciproca. Lui mi stimava perché avevo un dono spirituale di conoscere per rivelazione la parola di Dio e di dare delle risposte pratiche e filosofiche che lui non era in grado di raggiungere. Nonostante avesse ricevuto il dottorato di teologia il 14 ottobre 1999, io lo stimavo perché aveva una preparazione tecnica che avrei tanto voluto avere. Nessuno dei due era geloso di quello che l'altro conosceva delle scritture, e prova di questo era che non solo partecipavamo alla conoscenza della nostra comprensione della parola di Dio, ma anche i nostri dubbi. Inoltre, poiché poco dopo la conversione Walter si rese conto che il suo cognome era di provenienza ebraica, iniziò a frequentare la sinagoga di Modena. Frequentandola, pian piano in lui sorsero alcuni interrogativi in merito alla struttura della Torah. Nel frattempo anch'io avevo alcuni interrogativi in merito a Cristo. Mi sembrava di vederlo in ogni pagina della Bibbia. Era un dubbio che non mi lasciava in pace. Fu così che, conversando e confrontandoci in merito ai nostri dubbi, tutto ad un tratto ci rendemmo conto che i nostri problemi erano gli stessi. Con una sfumatura, però. Per quello che riguardava Walter, il problema era dal versante ebraico, mentre il mio era dal punto di vista cristiano. Avevamo capito che Yahweh era Cristo. Eravamo stupiti e forse ancora più confusi. Non sapevamo cosa pensare. Cristo era Yahweh, possibile. Walter, con un fiuto di vino, si rese conto che dovevamo scrivere ciò che lo Spirito ci dettava, e così mi invitò, due spesso tre volte al giorno, a parlare di tutto ciò che avevo compreso in merito alla persona di Cristo, mentre lui, con le capacità letterarie e tecniche fornite dalla scuola, avrebbe scritto ogni cosa. Io mi sentivo miseramente misero perché non sapevo esprimermi come si doveva, ma Walter, con tanto amore, mi incoraggiava perché ogni stupidaggine teologica l'avrebbe corretta. L'importante era che io trasmettessi le rivelazioni che ricevevo. Lui le aggiustava e le completava con la visuale del versante ebraico e con la sua competenza tecnica. Ma un tremendo dubbio rimaneva nel nostro cuore. Che cosa stavamo scoprendo? Cos'era che ci veniva dato di così strano e che noi non potevamo tacere? Possibile che solo a noi venisse rivelata la persona di Cristo nell'Antico Testamento? C'era un modo per togliere ogni dubbio: far leggere il nostro scritto a qualcuno più competente. Walter scelse una persona molto dotata in materia biblica, Padre Boschi, il quale, dopo aver trattenuto lo scritto per 2 settimane, ce lo riconsegnò con una risposta veramente agghiacciante. O questa è una bufala, oppure è la rivelazione del terzo millennio. In una completa tempesta di sentimenti, decidemmo di andare avanti. Qualcosa, o meglio qualcuno, agiva sulla nostra volontà. Anche di notte non avevamo riposo. Eravamo più turbati che sereni, ma non potevamo esimerci dallo scrivere sempre le rivelazioni nuove che ricevevamo in merito alla persona di Cristo. Di tanto in tanto Walter capitava in casa con gridi di gioia, perché aveva trovato qualche studioso biblico famoso che appoggiava le nostre riflessioni. Poiché le nostre rivelazioni in merito alla presenza di Cristo nella Torah le partecipavamo ad altri e venivano seccamente respinte, la nostra gioia era sempre più immensa quando avevamo la possibilità di constatare come tanti padri della Chiesa avessero scritto le stesse cose che lo Spirito Santo ci aveva dato. Non eravamo più soli. Non eravamo più unici. Non eravamo delle bestie rare. Senza saperlo, avevamo recuperato una delle dottrine più importanti della prima Chiesa. Questo perché io non ero condizionato da una scuola di pensiero teologica, mentre Walter, dotato di acume nel percepire le verità bibliche su Cristo, le trovava leggendo la Torah in ebraico. L'anno 2000 fu quello decisivo. Poiché le mie predicazioni spesso erano motivo di disagio per alcuni, decisi di astenermi dal predicare, per dedicarmi particolarmente solo allo studio su Yahweh. Dal canto suo, Walter non studiava altro. La nuova rivelazione lo aveva preso. Aveva studiato per anni con i migliori professori, ma ora nella sua mente si apriva una luce divina che chiariva il testo della scrittura. Scriveva giorno e notte. Fu così che molto timidamente demmo alla stampa il primo libro nel 2000 sotto falso nome, a causa del nostro timore che il messaggio contenuto nel libro fosse rigettato, causa l'autore, perché sia io che Walter non eravamo certamente apprezzati. Eravamo coscienti della rivelazione e non volevamo che fosse rigettata a motivo delle nostre persone così sovente discusse. C'era anche un problema pratico. Non avevamo soldi. Walter era squattrinato, io non navigavo certamente nella ricchezza. Fu così che racimolai una certa cifra, che sommata a quella di Walter ci consentì di consegnare lo scritto al tipografo. In poco tempo distribuimmo ai nostri conoscenti le 100 copie stampate. Il ricavato di queste ci mise in grado di avviare una seconda edizione sulla quale comparivano i nostri nomi. Questa era motivata dal fatto che un buon numero di persone, nonostante non comprendessero la portata del valore del libro, erano incuriositi della novità. Non ricordo di avere avuto incoraggiamenti o avere avuto contatti con persone che avessero compreso il messaggio. Anzi, qualcuno in seguito mi diede indietro il libro chiedendomi la restituzione dei soldi spesi. Infine uscì una terza edizione del libro, sempre più aggiornata. Ormai avevamo acquisito una certa sicurezza e parlavamo senza paura, perché, dopo varie ricerche, Walter aveva la certezza che eravamo appoggiati da molti studiosi biblici di fama mondiale. Contraddire loro equivaleva a contraddire autorità che non si dovevano porre in discussione. Intanto anch'io parlavo con sempre maggiore convinzione. Iniziai a propormi ad alcune chiese per spiegare la persona di Cristo. In quel periodo ebbi occasione di andare a Salerno per annunciare che Cristo era Yahweh e per una settimana parlai davanti ad un nutrito gruppo formato da credenti di varie confessioni. Ad ogni riunione vedevo dei visi illuminarsi, sentivo preghiere ferventi come non mai. C'erano lodi a Dio per le nuove rivelazioni, vi erano degli alleluia perché finalmente avevano compreso la persona di Cristo nell'Antico Testamento. Erano riunioni che duravano anche 4 ore e, nonostante il tema impegnativo, erano brevi. Era molto difficile lasciarci quando Cristo rendeva la scrittura alla nostra mente come nuova. Purtroppo erano poche le persone che accettavano questo nuovo e primo messaggio, perciò nutrivo ancora dei dubbi che la mia esposizione non fosse chiara. Nella mia mente feci lo stesso ragionamento del profeta Geremia. Essi sono certamente poveri, sono insensati perché non conoscono la via dell'Eterno, la legge del loro Dio. Andrò quindi dai grandi e parlerò loro perché essi conoscono la via dell'Eterno, la legge del loro Dio. Geremia 5, 4 a 5. Così mentre Walter si metteva in contatto con degli ebrei messianici e apriva un sito in internet, senza ottenere nessun risultato, io mandai una copia del mio lavoro ad un docente del Nuovo Testamento, ma mi rispose che ero estremista. Ne parlai con un docente di ebraico, il quale non mi disse del pazzo per educazione. Ne diedi una copia ad un direttore di una scuola biblica. Comprese il valore del tema, ma se ne guardò bene dal parlarne. Cercai di parlare più volte con persone aventi una buona istruzione biblica, ma le loro risposte erano simili a chi è davanti a qualcuno con problemi psicologici e deve accondiscendere. Contattai ancora degli editori domandando loro se, caricandomi delle spese, avrebbero pubblicato la mia dispensa, ma ricevetti solo il loro rifiuto, motivato dal fatto che la vendita non avrebbe ricavato un grande successo. Per dirla in breve, mi rivolsi a destra, fondamentalisti, e a sinistra, liberali, in alto teologi, e in basso, semplice credente, ma ovunque trovavo per lo più opposizione. Non è facile per nessuno portare avanti idee che vengono del continuo rifiutate, specialmente se questa opposizione è in casa sua. Eppure una volontà oltre la mia mi spingeva ad insistere nella predicazione della verità che Yahweh è Cristo. Un tema del genere oggi non viene preso in seria considerazione e arriva ad essere rifiutato da coloro che si professano cristiani. Ma la persona di Yahweh quale Cristo sarà nell'imminente futuro la verità cardine che salverà la vera Chiesa dall'errore e dal sincretismo religioso. Per la Chiesa nominale di Cristo valgono le parole che l'Apostolo Paolo indirizzò ad Israele. E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto, affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè un velo, rimane sul loro cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. 2 Corinzi 3, 13-16. La Chiesa di Cristo ha bisogno di convertirsi da una fede generica in Dio e in Cristo a una specifica cristologia basata su Yahweh. Diversamente per essa sono rivolte le parole che Gesù riferì a persone che conoscevano le Scritture, le meditavano e le insegnavano. Vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Per chi è completamente al buio, come lo erano i credenti dell'Antico Testamento, è sufficiente una piccola fede per essere salvati, ma a chi vede la luce è richiesta una fede completa. Walter ed io abbiamo appena scalfito una verità in merito a Cristo. E poiché in Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Colossesi 2, 3. Non posso immaginare cosa riserva il futuro a coloro che amano Dio. 1 Corinzi 2, 9. Gennaio 2005. Ellero.